Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. E bentornati dopo la pausa natalizia per ascoltare la trasmissione Fuori di noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori, dei circoli, dei padronati, facenti parte del grande mondo di Noi Associazione. È ripartito già da qualche mese questo tour radiofonico appunto negli oratori affiliati alla grande famiglia di Noi Associazione, che proprio nel 2012 compie 10 anni di vita. Abbiamo già incontrato, intervistato nelle passate puntate realtà di Padova, Venezia, Trieste, Vicenza, intervistando anche i presidenti territoriali. Abbiamo anche avuto l'occasione di ascoltare le prime parole del nuovo presidente di Noi Associazione, perché l'anno scorso c'è stata l'assemblea nazionale ed è stato eletto un nuovo direttivo di cui fa parte anche il vicepresidente, o meglio è diventato vicepresidente il presidente di Noi Treviso Associazione Don Bernardo Marconato e tanti altri, ed è diventato però per la prima volta presidente nazionale Don Marco Saiani, presidente di Noi Trento. L'ultima puntata era ovviamente prima della pausa natalizia. Abbiamo avuto anche l'occasione di intervistare e ci ha rivolto anche qualche augurio speciale in occasione del compleanno dei 10 anni di Noi Associazione, ma anche in prospettiva del Natale, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di Treviso. Fuori di noi è un programma condotto da me e anche da Betta, che per qualche appunto settimana, qualche puntata appunto non si è sentita perché è impegnata altrove, ma la ritroveremo appunto lungo il corso delle prossime puntate. Cosa facciamo? Intervistiamo responsabili, protagonisti del mondo oratoriale, ci facciamo raccontare anche progetti, iniziative che all'interno di questi ambienti nascono, crescono e arricchiscono la comunità, il territorio e la parrocchia. Tutta questa trasmissione è sempre in collaborazione con i territoriali di Padova, di Venezia e di Treviso. E quando andiamo in onda? Lo ricordiamo ogni sabato alle ore 14 e domenica alle 12.30, sempre e solamente su Blu Radio Veneto, e potete anche riascoltare la puntata su www.bluradioveneto.it cliccando sul podcast programmi, potete ascoltarla e anche salvarla. Ricordiamo appunto che quest'anno, l'ho già detto all'inizio, è un anno speciale perché si festeggiano i 10 anni di Noi Associazione ed è l'occasione anche per tirare un piccolo bilancio sulla realtà, sulla vita di questa grande associazione appunto, che riunisce più di 1300 circoli sparsi in tutto il territorio nazionale e riesce appunto anche a coordinare e seguire queste realtà perché siano veramente occasioni, punti di riferimento, di aggregazione per giovani, adulti e anche anziani. Ogni settimana noi raccogliamo anche da voi suggerimenti, idee, prospettive future. Basta mandare un'email a fuoridinoi@libero.it o mandando un sms al cellulare 320-614-6964. Siamo sempre accompagnati in questo cammino, in questo tour, dalla regia di Eddie Daici che ci accompagna e appunto da tanti amici che ci mandano qualche email, qualche notizia che noi cerchiamo appunto di veicolare attraverso questo prezioso strumento che è la radio. Uno strumento appunto abbastanza giovane, simpatico, che però deve essere arricchito appunto dei vostri contributi. Noi Associazione, ricordo ancora, è un'associazione di promozione sociale, quindi riesce anche a concludere e a progettare insieme con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali progetti significativi. Questo è molto importante perché tante volte noi riduciamo l'oratorio, l'ambiente oratoriale, come una serie di un ambiente dove si può passare il tempo libero con dei calcetti, con dei videogames. Bene, adesso queste realtà si pongono nei confronti del territorio come, diciamo, dei componenti preziosi per far crescere la comunità nel più largo senso che può avere questo termine. Anche oggi avremo un ospite speciale, anche oggi avremo il racconto di una realtà importantissima all'interno appunto di Noi Veneto, e potremo anche scoprire come riescono loro, diciamo, a far sviluppare questa associazione, questa dinamica associativa, guardando al passato, vedendo appunto il presente e prospettando anche il futuro. Ma come prima occasione, come primo momento, come nostra abitudine, mandiamo la prima canzone, una canzone che dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori che ci ascoltano per la prima volta nel 2012 qui a Fuori di Noi, e ovviamente dedichiamo Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang Siamo Noi. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. E il più grande spettacolo dopo il bene siamo veramente noi, quando riusciamo appunto a creare collaborazione, quando stiamo insieme, quando tra generazioni ci parliamo e poi appunto portiamo avanti e realizziamo dei bellissimi, delle bellissime realtà, come può essere appunto anche un oratorio, un ambiente appunto accogliente, aperto verso tutti e anche disponibile al confronto. Bene, allora, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, anche questa settimana, la prima puntata del 2012, abbiamo un ospite speciale. Abbiamo intervistato nei mesi passati tanti presidenti territoriali per vedere un po' il polso della situazione nelle varie diocesi, e anche questa settimana dovremo avere in linea il presidente territoriale di Noi Padova. Don Gabriele, ci sei? Presentissimo. Ecco. Ciao Don Gabriele. Ciao. Ecco, noi abbiamo già contattato una realtà padovana nelle puntate precedenti. Negli anni passati abbiamo sentito da parte della realtà di Noi Padova tanti bei progetti che avete portato a termine, il concorso musicale, non soltanto un concorso musicale per dire, diciamo, l'ultima attività di recente, ma un concorso che sviluppava tante dinamiche, che ha coinvolto anche parecchie persone. Allora, ti chiedo ovviamente, Don Gabriele, anche un po' di numeri. La realtà di Noi Padova oggi è costituita da quanti circoli, oratori, padronati? Beh, abbiamo mai superato i 200 circoli, 202-203, poi siamo in quel periodo in cui stiamo contando le conferme, però ormai la quota è superata e superiamo, ormai siamo tra i 47 e i 48 mila soci in tutta la diocesi. Ecco, Don Gabriele, tu sei presidente di Noi Padova da quanto tempo e hai altri ruoli all'interno, diciamo, della diocesi padovana? Sì, beh, sono presidente dal 2009. Dall'aprile del 2009 che mi occupo di questa associazione, e poi di fatto sono anche nel campo della comunicazione, quindi Diocesi di Padova, che è l'ambiente nel quale, diversamente che non altre esperienze diocesane, è cresciuto l'esperienza dell'associazione Noi. Quindi qui all'interno del Centro Padovano della Comunicazione Sociale era un po', come dire, il grembo che ha dato, certo, vita, che ha fatto crescere questa associazione, che adesso evidentemente ha gambe per camminare da sola. Certo, allora, visto che parliamo di comunicazione oggi, si sente dire appunto che bisogna fare, bisogna pensare attività eccetera, ma forse bisogna anche, prima di fare qualcosa, bisogna anche comunicare, riuscire anche a coinvolgere le persone nella sintonia che possono avere scopi e finalità di questo fare. Quindi quando si presenta un progetto bisogna anche dire e spiegare spiegare perché è importante fare questo progetto e quali sono appunto gli obiettivi finali. Allora io ti chiedo, la realtà di Padova è molto variegata come tutte le realtà territoriali, immagino. Come riuscite voi a comunicare, diciamo, a dialogare con le vostre realtà? Riuscite, diciamo, ad avere o avete trovato un sistema, un mezzo, una modalità soprattutto per avere sempre il polso della situazione, cioè di come vivono, diciamo, l'esperienza oratoriale, gli ambienti, i volontari, i responsabili? Come fate a raggiungere tutte queste realtà? Beh, il problema che tu indichi è assolutamente complesso, proprio a partire dai numeri, evidentemente, e poi da un territorio che è quello della diocesi di Padova, che si stende su 5 province con centinaia di chilometri dal centro al punto più lontano, quindi che vuol dire poi anche una diversità di situazioni e di realtà, quindi sì. Non è facile, è veramente improbo pensare di poter avere appieno il posto della situazione, però il tentativo c'è tutto, ci sono evidentemente gli strumenti ordinari che sono quelli di una segreteria particolarmente attiva, pronta e recettiva delle diverse richieste, ci sono poi gli strumenti tradizionali dal sito alla pagina sul settimanale diocesano, le newsletter e così via. Direi che la parte più innovativa probabilmente è la scelta di organizzare, ormai è già il terzo anno, quella che sarebbe l'assemblea d'autunno, e la realizziamo in incontri zonali nel periodo appunto che va da ottobre a novembre, in 6 incontri zonali sparsi nella diocesi, e che ha appunto l'obiettivo di facilitare il dialogo con la base, con i responsabili dei direttivi, in modo da poter avere sia un atteggiamento di ascolto favorito da parte nostra del direttivo di Padova, sì. E anche evidentemente facilitare la comunicazione tra di loro, che hanno sempre molta voglia di ascoltarsi e di confrontarsi. In prospettiva vorremmo proprio che, in riferimento così ad una serie di vicariati o di zone, adesso vedremo come meglio organizzarci, anche se sarà una cosa molto difficile, però ci proveremo, di avere delle figure che abbiamo così battezzato referenti zonali, non esistono ancora, ma vedremo se riusciamo ad averli, sì. Che facciano un po' da intermediari, sia più che intermediari, da portavoce. Prima ancora costruttore di rete all'interno della realtà locale, e poi evidentemente gli portavoce nei confronti del comitato territoriale. No, credo sia un vantaggio anche per gli altri territoriali che già un po' accennavano a questo discorso, cioè il fatto che magari anche due oratori che sono vicini, invece di presentare due progetti differenti, magari con la stessa finalità, ne facciano uno ma insieme, ed è questa anche forse una bella risorsa per anche lanciare un messaggio alla comunità stessa, che incontra un'altra comunità, quindi si confrontano e possono, diciamo, anche maturare insieme. So che da parte della tua della direzione, della presidenza, del consiglio direttivo di Noi Padova, fin dall'inizio vi siete anche, diciamo appunto, posti il problema di come, o meglio, il problema della identità di Noi Padova, cioè di vedere appunto voi come territoriale e come oratori cosa volete, diciamo, comunicare, dove volete investire, dove volete impegnare risorse. So che c'è stato un lavoro anche che ha occupato parecchio tempo, quindi un tempo più che dedicato appunto a proporre, a riflettere e ad ascoltare, come hai detto poc'anzi tu. Allora io ti chiedo una cosa: da questo ascolto, da questa anche attenzione nei confronti delle singole realtà, sono emerse, diciamo, alcune difficoltà o le difficoltà principali che oggi per esempio gli oratori incontrano nelle loro attività all'interno della comunità, all'interno della parrocchia? Ci sono difficoltà che si ripresentano spesso mensilmente in segreteria e quindi poi confluiscono anche come tema di discussione anche all'interno del direttivo, diciamo, territoriale? Le maggiori difficoltà che questi oratori vivono oggi? Sì, allora diciamo che il problema principale, almeno il primo problema che abbiamo affrontato, poi i problemi sono tantissimi, allora ce n'è uno che io sento continuamente serpeggiare, sì. Anche se poi nei processi decisionali nostri, che sono molto rigorosi, molto associativi, e quindi è l'assemblea che decide tra i tanti problemi quali mettere a fuoco e quindi quali affidare al comitato territoriale, comunque ce n'è uno detto ma di fatto mai preso di petto, vedremo cosa succederà nei prossimi anni, è che è il rapporto, Monticicco è un problema del rapporto con la parrocchia, cioè del riuscire a definire in maniera serena e tranquilla e chiara la propria identità all'interno della parrocchia. Questo direi che è qualcosa a cui noi puntiamo e speriamo di arrivarci, perché faciliterebbe molte cose. Molte situazioni sono assolutamente positive, anzi oso dire la stragrande maggioranza delle situazioni sono positive, però il desiderio di crescere c'è. Per arrivare a questo, quindi, i primi obiettivi che ci si è dati è stato quello della formazione dei direttivi. o di chi all'interno del circolo ha delle responsabilità, perché senza formazione poi è difficile sia trovare un linguaggio comune sia essere efficaci nel proprio agire, si rischia di disperdersi parecchio. Allora alcuni ambiti che sono: uno, quello della gestione stessa del circolo, dove gestire un circolo nella sua dimensione associativa, non tanto quella burocratica, per quanto assolutamente importante, ma proprio cosa vuol dire avere un'associazione, avere a che fare con un'associazione, far crescere delle persone in relazione tra di loro in un contesto associativo. Questo è stato un tema. Un altro tema era quello progettuale, formare quindi i responsabili e direttivi nel saper realizzare un progetto, come si incomincia, come si fa, come si interagisce, quali sono i vari passaggi di una fase progettuale. E infine, perché la cosa evidentemente ci appassiona da sempre, è il discorso dei giovani e quindi del coinvolgere, in quale maniera coinvolgere i giovani in attività e in proposte. Ecco, Don Gabriele, mi pare appunto che anche il vostro contatto, diciamo, con il settimanale diocesano, anche tuo personale, vedo che tante settimane date il vostro settimanale che si chiama La Difesa del Popolo, vedo che anche tu qualche volta suggerisci qualche spunto per gli oratori su cui riflettere, eccetera. Ma mi pare anche di ricordare, anzi qua ce l'ho davanti, quindi non ricordo ma cito, il book che noi associazione ha fatto dal titolo Educare dall'emergente alla speranza, che era quel convegno che avevano fatto a Sottomarina nel 2010. Tu citavi una cosa, secondo me, importante, legata proprio ai giovani e che mi ha un po' colpito. Dici che bisogna educare la progettualità attraverso il dono della responsabilità. Secondo me è una parola fondamentale oggi all'interno dell'oratorio, ma credo a livello proprio di società. E dici: ai giovani va data la possibilità di gestire spazi, di farsi carico di compiti, di dare concretezza a modalità proprie di presenza dentro la comunità. E qua aggiungi, poi continui, dici: certo, non è che noi diamo ai giovani completa, diciamo, libertà, o meglio, non li lasciamo soli, noi li accompagniamo, però dobbiamo dare loro anche l'incarico, diciamo, anche la loro creatività deve essere, diciamo, all'interno degli ambienti oratoriali, deve avere in qualche maniera, devono sentirsi un po' protagonisti, sempre dando anche una certa responsabilità nel gestire, eccetera. Questo a livello, diciamo, di noi Padova capita, sta già capitando, sta già succedendo in certi oratori. Vedi che questi messaggi stanno, diciamo, stanno diventando concreti, stanno diventando delle realizzazioni, o siamo ancora all'inizio? Ma evidentemente in 200 circoli sono numerosi quelli che hanno delle attività interessanti, rivolte ai giovani, degli spazi aperti ai giovani. L'esperienza che citavi tu all'inizio del concorso musicale nasceva proprio dalla consapevolezza che ormai, ad esempio, le sale prove in tanti circoli, in tanti centri parrocchiali sono numerose, e la sala prova è il modello più spontaneo e più semplice, sì, in cui viene affidato al protagonismo dei giovani la capacità di realizzare qualcosa. E poi, se pensiamo al Grest o altre attività di tipo formativo, questa è una cosa che ancora ritroviamo. Io quello che credo è che, se da una parte la responsabilità è indubbiamente, cioè la responsabilizzazione dei giovani è proprio un ingrediente nel processo educativo dei giovani, di responsabilizzazione, dall'altra sono altrettanto convinto, ma magari su questo purtroppo siamo un po' indietro, che il clima associativo, l'ambiente associativo, quindi dove la responsabilità non viene regalata, non viene concessa, ma viene legittimata, dove il senso di appartenenza, di partecipazione è un elemento caratteristico, anche qui non viene, come dire, concesso, ma si è membri a pieno titolo di un'associazione. Bene, questo contesto per me avrebbe una forte valenza responsabilizzante nei confronti dei giovani. Il problema è che probabilmente noi dobbiamo crescere come associazione in questo senso, cioè come molti notano è un'associazione numerosa, con tanti tesserati, non necessariamente tanti soci. Bene, sempre di più, man mano che questi soci, questi tesserati si renderanno conto di essere soci, io credo che gli stessi giovani di quel circolo, di quella realtà, incominceranno a responsabilizzarsi e a crescere all'interno. Sì, è chiaro. È chiaro, Don Gabriele. L'abbiamo fatto a tutti i nostri intervistati, anche responsabili, volontari e tanto più appunto i presidenti territoriali. Questa domanda che ti sto per fare: se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Non so se sia la stanchezza di questo periodo prenatalizio, ma lo immagino come un bel divano da taverna, cioè quel divano che ormai non sta più bene nel salotto perché è un po' sfondato e quindi è stato messo nella taverna dove vanno poi i ragazzi o anche gli adulti a rilassarsi e non importa in quanti si è seduti sopra e come ci si è buttati, però ci si sta comodi. E difatti è un divano che ha tenuto botta a mille battaglie. Ecco, l'associazione Il Circolo secondo me è questo luogo dove ognuno può sentirsi innanzitutto comodo, accolto, dove non è padrone del divano ma deve condividerlo con altri e l'esperienza stessa della condivisione è un'esperienza felice, simpatica e dove proprio da questo star bene può nascere qualcosa che magari non ha niente a che fare esattamente con il divano, ma che però può far bene alle persone che vi si siedono sopra e magari anche a quelle che ci girano attorno. Bene, don Gabriele, ultimissima curiosità: 2012, 10 anni di Noi Associazione. Noi Padova sta preparando A, una festa, B, un progetto, C, tante idee, D, puntini puntini. Hai un minuto di tempo. Diciamo che quest'anno noi ci stiamo concentrando sul volontariato. L'associazione Il Noi è di promozione sociale, non è un'associazione di volontariato, ma noi crediamo che i soci debbano proprio qui trovare lo stimolo per offrire del proprio tempo e della propria disponibilità. Non è facile gestire i volontariati, i volontari. Chiede grandi risorse, chiede grande attenzione, chiede grande preparazione. Noi vorremmo che in questi 10 anni la nostra associazione fosse proprio felicemente ricca di persone che si trovano motivate a dedicare il proprio tempo e le proprie energie e credo che questo sia il miglior modo di festeggiare i nostri 10 anni. Ed è anche un bel augurio. Don Gabriele, ti ringraziamo tanto della tua disponibilità per Fuori di Noi, ti auguriamo un buon anno e ovviamente un buon lavoro per quanto riguarda Noi Padova. Saluta tutti i tuoi collaboratori, tutti i tuoi consiglieri che abbiamo anche incontrato nelle puntate precedenti di Fuori di Noi, nelle annate precedenti. Don Gabriele, tante grazie ancora, ciao! Ciao e buon anno a tutti! Bene, allora noi dopo l'intervista con Don Gabriele Pedrina, presidente di Noi Padova, mandiamo il secondo brano musicale. E è un tempo, diciamo, anche molto bello in cui si riflette sull'anno che sta per arrivare, forse sulle vacanze prossime. Questa canzone sicuramente vi fa ritornare in mente tanti bei paesaggi. Maria Cadù con Shimbalaye. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar, Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai pousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai pousar. E la regia di Eddie Dice ci ha suggerito questa splendida canzone. Io spero già di andare al mare, di fare già vacanza, ma purtroppo l'abbiamo già fatta nelle settimane precedenti, appunto quando abbiamo festeggiato il Natale. Puntata, appunto, prima puntata di Fuori di Noi per quanto riguarda il 2012. Abbiamo sentito pochi minuti fa Don Gabriele Pedrina, presidente di Noi Padova, che illustrava, diciamo, la sua realtà. Qui ci è arrivato però un volantino per quanto riguarda Noi Treviso Associazione, che promuove la 9ª rassegna di teatro amatoriale. Ora oratorio a teatro presso il teatro comunale Helios Aldò di Scorzè. Qui vediamo un ricchissimo programma da sabato 21 gennaio a domenica 18 marzo. Chi si esibirà? Qui ci sono tantissimi nomi, titoli, eccetera. Diciamo solamente che c'è Cappella di Scorzè, Trevignano, Robegano, Gaggio, Ciano del Montello, Onè di Fonte, Mussetta, Vedelago, Padernello e Trebaseleghe. Tutti questi paesi hanno un circolo oratorio noi affiliato ovviamente a Noi Treviso Associazione e si esibiranno appunto per la gioia di grandi e piccini al Teatro Helios Aldò di Scorzè. Ripeto ancora, da sabato 21 gennaio a domenica 18 marzo. L'ingresso è di Euro 3. È una collaborazione, è un'occasione per far vedere che all'interno di questi ambienti nascono dei gruppi di persone che amano il teatro, che raccontano la storia passata, presente e futura delle nostre, del nostro territorio. Un'occasione appunto per vivere un momento di spensieratezza e di gioia. Cosa dire ancora? Niente altro. Ricordiamoci appunto che la programmazione di Fuori di Noi è ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12.30. Salutiamo la regia di Eddie Dai, ci saluto la Betta e ci risentiamo su Blu Radio Veneto, sempre solo su Blu Radio Veneto, la prossima settimana con Fuori di Noi. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.